Come non altro torno dentro, bye bye. Cambio mano e sogno, bye bye. Porta via tu sei, bye bye. Bye bye. E ci penso e ci ripenso. Questa storia tra noi e due. Non ci so se sono troppo bello. Ti ho portato dai e dico bye bye. Sono resti e dai. Più che raggiungibile tu. Bye bye. So già che soffrirò e starò male senza di te. Io non sarò restare senza che tu mi baci, senza che tu mi occhi, soprattutto senza di te. È finita questa volta, però non ne torno dietro. Io ci penso e ci ripenso, sarà strano ma ti dico bye. Bye bye, vado a trovare mamma. Bye bye, che so già che potrei anche sbagliare, ma ora no. Non resto qui a soffrire questo mio dolore. Un colpo di tal cuore che mi uccide senza di te. Thank you.